Meduro, e ci due abbassi, e stai dolente, lasciati sospirare. Cieli, chi mai creduto avria che in un momento solo angelica potesse, mostrando l'altri amor, farsi incostante? L'ardi ancora non sei d'un cuore amante, dorti non ad uopo chi nel seno racchiude un cuore sincero. S'altri adora il mio bene, io soffrirlo dovrò, dovrò tacere e soffrire tacendo. Questo è amor vero.